lacrime me fa migar. Femmina, si tu vengi una vivere, mentre tu sei cato all'anima, non posso più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo le serve ben ganna. Femmine come a te.